Questa sera, cari amiche e cari amici, salterei del tutto i convenevoli perché voglio parlarvi di un libro che mi ha entusiasmato. Spero che voi non crediate che sono al soldo dell'editore, semplicissime persone, ma vi assicuro che non ci becco una lira con tutta questa cosa. Vi dico subito il titolo del libro, è Snow Crash, probabilmente lo conoscerete già, e l'autore è Neil Stevenson e l'editore è la Shake Edizioni. Dunque, il libro è giunto in Italia da poche settimane, ovviamente preceduto da un grande battage, perché il libro è del 92 e ovviamente all'estero se ne è parlato già molto. Io vi dico il mio parere: se la figura di William Gibson ha obiettivamente dominato la fantascienza e insomma la narrativa fantastica di tutti gli anni 80, il mio parere che questo signore, questo Neil Stevenson, che è un po' più giovane di lui, ma di poco, sì, di un po', insomma, dominerà, a mio parere, gli anni 90, non c'è alcun dubbio. Le altre opere sono in arrivo sempre per la Shake, poi c'è un altro libro suo in giro di cui vi parleremo, però non c'è il suo nome sulla copertina, quindi forse è più difficile trovarlo. Snow Crash, che cosa significa Snow Crash? Snow Crash è il nome di due cose che impazzano in questo universo, in questo futuro immaginato da Stevenson, di cui adesso vi dirò qualche cosa, e è il nome sia per un virus di computer sia per una droga, che sono in realtà strettamente collegate. Si chiama Snow Crash perché Snow, questo virus, riduce, diciamo, è un virus così, diciamo, profondo, virus del computer, che agisce direttamente al, diciamo, livello degli elettroni sul monitor e quindi trasforma tutto il monitor in quello sfarfallio che voi, insomma, vedete quando c'è la sua televisione su di un canale che non, insomma, trasmette, che è appunto l'effetto neve. Se vi ricordate, Neuromantica di William Gibson si apre proprio con il cielo, aveva il colore di una televisione sintonizzata su un canale morto, quindi qua c'è evidentemente una cosa. E la droga invece è una cosa che viene iniettata e viene diffusa proprio per produrre negli hacker questo effetto e quindi per fargli praticamente saltare e bruciare le cervella. L'hacker che venga esposto o alla droga o a questo snow crash, a questo effetto neve sul monitor, si troverà rapidamente con il cervello ridotto in pappa. Che mondo si immagina Stevenson? Beh, si immagina il mondo, non dico solito, ma insomma di cui spesso si parla nella letteratura cyberpunk, cioè governo centrale ridotto praticamente a zero, azzerato, e tutto il territorio degli, insomma, Stati Uniti frammentato in piccole cose che hanno una sigla che non mi ricordo manco, ENOIC mi sembra, insomma entità quasi nazionali organizzate in franchising. Perché in franchising? Perché ci sono delle organizzazioni, prima fra tutte la mafia, che domina nel libro, le quali affittano il proprio marchio e ognuno può organizzare un quartierino, una casa, eccetera, come vuole, con l'immagine della mafia o con l'immagine della Super Hong Kong di Mr. Lee o con l'immagine delle porte del paradiso del reverendo Wayne. Queste sono alcune delle cose. Questo è il mondo reale. Quanto al ciberspazio, naturalmente qui c'è e si chiama metaverso ed è una grande strada larga circa 30 metri, strada ovviamente virtuale, in cui girano gli avatar, cioè le incarnazioni virtuali delle persone. Allora, in questo mondo che vi ho sommariamente descritto si aggirano diversi personaggi, i due principali sono ovviamente, non è il caso di dirlo, un maschio e una femmina. Il maschio è Hero Protagonist, che era stato un hacker, aperta piccolissima parentesi, gli hacker in questo libro non sono più quasi, diciamo, nessuno dei, come dire, liberi professionisti della scienza del computer, ma lavorano tutti al soldo di qualche multinazionale o di qualche grande, diciamo, azienda, una fra, poi la più importante fra le quali, quella che è quella del signor, del come dire, monopolista di turno, insomma, che poi fa un po' tutto, fa il Deus ex machina della cosa, si chiama Lawrence Robert Reif. Quindi questo hero protagonist che pur essendo appunto un hacker, però non volendo lavorare per queste cose, si è messo a fare il libro professionista e consegna le pizze per Cosa Nostra, e invece una giovanissima corriere, ora vi dirò corriere col K, che si chiama YT, che vorrebbe dire Yours Truly, ma lei non lo spiega mai, dice YT è il suo pseudonimo, insomma. I corrieri, come nel romanzo di William Gibson, Virtual Light, Luce Virtuale, sono molto importanti perché consegnano da un franchise all'altro, da una enclave all'altra, consegnano messaggi altre robe e girano sugli skateboard con ruote intelligenti che oltrepassano i vari ostacoli, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, tutto, diciamo, hero protagonist, che è un afro-cinese, afro-giapponese, insomma, infatti gira afro-giapponese, gira sempre con due spade da samurai, una lunga e una corta, sulla schiena, ed è un grandissimo tiratore di spada, insomma, e invece YT, che è una giovanissima, invece bianca, insomma, normale, verranno coinvolti in una serie di incidenti e di sviluppi mozzafiato, appunto nel tentativo di chiarire il mistero di questo snow crash, della diffusione di questo virus. Ci sono moltissimi altri protagonisti, ma vi accenno solo a uno che compare poco nella prima parte, sempre di più nella seconda. Si chiama Raven ed è un gigantesco aleutino, cioè una specie di eschimese delle isole aleutine che sono verso il nord della Russia, verso la parte asiatica, insomma, fino allo, insomma, scioglimento che li vedrà ovviamente in lotta contro questo monopolista di Reif. Ci sono moltissime altre cose che non posso dire adesso perché il tempo stringe. Insomma, voglio dirvi soltanto che il modo in cui è scritto questo libro è meraviglioso, e per una volta tanto anche la traduzione italiana rende pienamente merito. Ci sono un sacco di neologismi. Io mi diverto moltissimo quando devo scoprire in un libro di volta in volta il significato delle, insomma, parole nuove, eccetera, eccetera. Ma lo stile è scoppiettante, è molto diverso dallo stile gibsoniano, non è così lirico o così epico come Gibson. Sembra un gigantesco cartone animato, un gigantesco videogame in cui ci si diverte veramente ad ogni pagina. E naturalmente, però, per gli amanti del senso e per coloro che cercano qualcosa di più, c'è anche qualche cosa di più. Vi dico, vi do solo questo breve indizio: ripensate al motto di William Burroughs, divulgato da Laurie Anderson, Language is a virus, il linguaggio è un virus. Ha molto a che fare con questo libro. Bentrovati a tutti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Insomma, io non è che tutti i sabati sera proprio vi devo parlare di un capolavoro mai visto della storia, anche perché non potrei, insomma, non è che tutte le settimane c'è qualcosa. Allora, bisogna accontentarsi qualche volta di quello che passa il convento. Quello che passa il convento questa settimana è un onesto romanzo che vi, insomma, consiglio, ma ecco, senza però, diciamo, strafare, dall'argomento, diciamo, titillante, anche se è un argomento sul quale si sono scatenati un po' tutti negli ultimi anni, e cioè i vampiri. Allora, intanto diciamo l'autore, che è Kim Newman, e il titolo, che è Anno Dracula. Dunque, il nome Kim Newman non dice nulla a moltissimi di voi, dice qualcosa soltanto a chi si occupa quasi professionalmente di storia del fantastico, perché è autore di numerosi saggi sul cinema dell'horror, eccetera. Insomma, era uno che prima di scrivere narrativa si era occupato, diciamo così, da un punto di vista saggistico, di queste cose. Adesso, da qualche tempo, dunque, è un inglese, questo spiegherà molte cose che vi dirò poi, da qualche tempo scrive narrativa. Questo libro di cui voglio parlarvi questa sera si chiama Anno Dracula ed è stato edito da poco tempo dall'editore Fanucci. Anno Dracula era anche nell'originale, quindi vuol dire che si presume che sia in latino come Anno Domini, Anno Dracula, insomma, nell'anno di Dracula o nell'anno del Signore. Di che cosa parla questo libro? Beh, lui prende le mosse dal classico romanzo che si è, in cui è partito Dracula come personaggio di fiction, cioè dal famosissimo appunto Dracula di Bram Stoker, però ne rovescia il finale, cioè l'antefatto di questo libro è che il dottor Van Helsing e i suoi amici Jonathan Harker e Lord Godalming non hanno ammazzato veramente Dracula, ma Dracula è sopravvissuto. E cosa ha fatto Dracula? Si è niente un po' di meno che impalmato con la regina Vittoria, che nel frattempo era diventata vedova di Alberto, del principe consorte. Quindi abbiamo una Inghilterra vittoriana certamente nella fine dell'Ottocento, ma in cui Dracula è il principe consorte, e naturalmente in questo modo tutta la società inglese si è vampirizzata, per cui la Londra in cui è ambientato prevalentemente il libro rigurgita di esseri chiamati caldi e di esseri chiamati nuovi nati, cioè quelli che sono appena diventati vampiri, insomma. Con una sorta di, dialettica appunto tra vivi e morti che si interseca con la normale dialettica sociale, insomma, con la lotta delle classi o con la lotta dei gruppi sociali, dei gruppi politici, eccetera, con degli effetti a volte comici, a volte abbastanza divertenti, insomma. Naturalmente, fatto questo, Kim Newman che cosa fa? Non resiste alla tentazione e, oltre a mettere dentro tutti gli altri protagonisti di romanzi di vampiri scritti prima e dopo il Dracula di Stoker, quindi per esempio il primo ministro è Lord Ruthven, che è il personaggio principale del Vampiro di Polidori, come alcuni di voi ricorderanno, forse il primo vampiro della storia della letteratura, e poi c'è il vampiro del Vurdalak, poi ci sono vampiri, insomma è pieno di vampiri qua. C'è il Varney, il famoso Varney, che è personaggio creato da James Malcolm Rymer, altro scrittore dell'Ottocento, insomma è pieno di tutti questi qua. E poi troverete anche Sherlock Holmes evocato, troverete un sacco di... troverete il reverendo Dodgson, che conoscete forse meglio col nome di Lewis Carroll, autore di Alice nel Paese delle Meraviglie. Troverete il dottor Moreau, troverete un sacco di personaggi. L'ultimo è il più, quello che vi dico, che troverete è ovviamente Jack lo Squartatore. Troverete, vi avevo detto, Jack lo Squartatore. Chi è Jack lo Squartatore? Purtroppo per voi ve lo posso dire subito, perché Kim Newman non lo usa come coup de théâtre, ma lo enuncia fin dalle prime pagine del libro. Jack lo Squartatore, che ammazza questa volta prostitute vampire, prostitute cosiddette nuove nate, non è niente altro che il nostro familiare, per i lettori di Dracula, Jack Seward, cioè l'ex fidanzato di Lucy, la prima vampira, la prima donna che viene vampirizzata nel Dracula di Stoker, e il quale dirige la clinica che già dirigeva nel Dracula di Stoker, e ben coperto per i tre quarti o forse quattro quinti del libro, opera dissezionando questi cadaveri. Chi sono i due personaggi principali, a parte questa caterva di persone, a cui dimenticavo, divertentissimo, c'è anche il famoso Fu Manchu di Sax Rohmer, insomma pieno di personaggi della letteratura. I due invece sono due personaggi creati da appunto Kim Newman. Uno è un non vampiro e si chiama Charles Beauregard e opera per un misterioso Club Diogene, che è una, si capisce bene se è una sorta di metà tra una P2 vittoriana e dei servizi segreti, insomma una specie di club, e invece l'altra è una vampira, però di stirpe diversa da quella di Dracula, una vampira francese che fa parte di un'altra linea, che si chiama Geneviève Dieudonné. Questi due sono i personaggi principali i cui destini si intrecciano nelle indagini su questi misteriosi delitti appunto su Jack lo Squartatore, e che condurranno a poco ovviamente ad un insomma finale un po' a sorpresa che non vi posso rivelare per non guastarvi la sorpresa. E quindi concludo ricordandovi ancora titolo, autore, pagine, prezzo. Allora, Kim Newman, Anno Dracula, l'editore è Fanucci di Roma. Le pagine sono, adesso ve lo dico, esattamente 334 utili, più un po' di schifezzine finali di pubblicità in fondo. Il prezzo è lire 25.000. Devo concludere con una nota negativa, che forse a voi non guasterà la lettura, ma comunque devo dire che la traduzione di questo libro è particolarmente disastrosa, come ogni tanto capita in questi editori insomma di genere. Si vede proprio che è stato rotto con i piedi, insomma. Però vabbè, insomma, ragazzi, questo è quello che questa settimana abbiamo da consigliarvi. A risentirci.